sono passate sei notti, c'erano 12.000-13.000 persone che vivevano nel campo di Moria e attorno, e da sei notti sono per strada. Dormono nella strada statale che congiunge la città di Mitilini, che è la città più grande dell'isola, all'ex campo di Moria. Non hanno acqua, non hanno cucine, non hanno bagni, non ci sono servizi. In più tra di loro ci sono almeno 35 che erano già risultati positivi al Covid e che erano stati messi in isolamento all'interno del campo. Quindi dal momento la richiesta del governo è: troviamo una soluzione per salvare tutti quanti nello stesso posto. La soluzione sembra essere un campo di tiro militare, è una piana di fronte al mare dove stanno costruendo delle tende quelle bianche dell'UNHCR, che sono messe a poca distanza l'una dall'altra, con una grande concentrazione, e che dovrebbero ospitare, secondo la prima dichiarazione del governo, 3.000 persone. Ieri l'UNHCR ci ha detto che non sono 3.000 persone, ma probabilmente saranno 10.000 persone. L'impressione, l'idea del governo e delle autorità che stanno gestendo la crisi, sia spostare tutti quanti dalla strada all'interno del campo. Fino a qua si potrebbe dire che non c'è niente di male. Il problema è che è il primo campo detentivo che viene fatto e viene istituito solo per rifugiati del mondo. Viene aperto un campo profughi in piena Europa in cui si fa entrare le persone, se entrate non potete più uscire. Ovviamente le condizioni del campo sono tutte da vedere come saranno. Per quello che vediamo in questo momento, per la distanza, per il sovraffollamento che ci sarà, per la grandezza dello spazio, probabilmente sarà uno dei campi che sarà considerato ancora peggiore di quelli esistenti. Quindi insomma diventano delle sorte di CIE però per richiedenti asilo. Sì, assolutamente, cioè nel momento stesso in cui subisci una detenzione vuol dire che è stato provato che hai fatto qualcosa che non andava. Adesso possiamo stare a parlare sul fatto che la legge sia giusta o non giusta, però è legge. La legge qua dice che un richiedente asilo, una volta che fa la richiesta d'asilo, anche se non gli viene riconosciuto lo status, cioè il periodo in cui le commissioni territoriali hanno bisogno di capire se lo status viene riconosciuto o no, è libero di muoversi in uno spazio, non dappertutto, ma in uno spazio. Questo evidentemente già non funzionava a Moria, perché le persone venivano lasciate 10 mesi in attesa del primo colloquio, per cui non viene nemmeno preso in considerazione la loro richiesta. Prima del primo colloquio le persone non potevano lasciare l'isola, se il primo colloquio aveva esito positivo potevano andare sulla terraferma. In questo caso gli si dirà: voi fin quando non avete il primo e il secondo colloquio non potrete lasciare il campo. Questo vuol dire metterli in prigione senza che abbiano fatto nessuno dei motivi, nessun niente di quello che è il processo per diventare richiedente asilo. Evidentemente c'è qualcosa che non va e l'Unione Europea in questo momento sembra disinteressarsi di questa situazione. E infatti volevo farti una domanda proprio sull'Unione Europea, ma anche sul governo di Mitsotakis: l'ipotesi di trasferire queste persone dall'isola di Lesbo in altre parti o della Grecia o anche dell'Europa non viene mai presa in considerazione però? No, cioè c'è stata questa richiesta di trasferire 400 minori non accompagnati in 10 paesi, lo hanno deciso il presidente francese e la cancelliera tedesca, però questo ovviamente 400 su 13.000 è una fazione che non va nemmeno presa in considerazione, soprattutto perché sono minori non accompagnati, sono persone veramente vulnerabili. La possibilità che le spostino sulla terraferma implicherebbe che sulla terraferma ci sono dei luoghi che sono capaci di accoglierli, ma i luoghi sulla terraferma, cioè gli altri campi, sono in situazioni terribili. Questo per due motivi: uno, perché sono pochi e sono sovraffollati; due, perché tanti di questi sono sottoposti a una chiusura proprio per il Covid. In più, il fatto del Covid non è da sottovalutare qua sull'isola, perché stanno iniziando a fare i test. I nuovi residenti del nuovo campo, per il momento sono 550, vengono testati all'ingresso. Hanno un tasso di positività che è molto molto alto, del 2,5-2,6%. Questo vuol dire che se fosse così, cioè su 13.000 persone testate, avremmo quasi migliaia di persone positive. È un problema gigantesco avere 1.000 persone positive tutte concentrate nello stesso posto. La possibilità che contagino altre persone, essendo stimati così vicino in condizioni di sovraffollamento, è altissima. Evidentemente sulla terraferma questo lo sanno, per cui nessuno vuole far uscire i richiedenti asilo dall'isola, ed è motivo per cui gli isolani non vogliono assolutamente che i migranti vengano a contatto con la popolazione. I negozi non vendono più niente ai richiedenti asilo, e le strade dove sono in questo momento richiedenti asilo a dormire hanno tutti i negozi chiusi.